Certo, intanto la giornata è giovedì, perché la mostra si inaugura il 7 di febbraio e quindi per noi intanto questa è la prima cosa che sottolineo. Nessun rimorso, c'è un motivo per cui la mostra si chiama così. Noi abbiamo... Nessun rimorso è una frase storica di una della banda Bonnò, piuttosto nota, insomma, che lo disse nel momento in cui stavano... tendenzialmente per essere arrestati dal primo all'ultimo, però per noi era importante, perché noi davvero riteniamo che non ci sia nulla di cui dobbiamo avere rimorso, nel senso che chi è stato in piazza a Genova ha portato in piazza la propria coscienza nei propri modi, ed è questa è una cosa a cui noi abbiamo sempre molto creduto, perché il nostro motto era quello di difendere tutti, indipendentemente dal fatto che noi singolarmente fossimo d'accordo o non fossimo d'accordo con quello che avevano fatto in piazza a Genova, soprattutto perché tra l'altro noi, il nostro collettivo è fatto da persone che vengono tutte da storie molto diverse, per cui il bello forse di questa situazione era questa. E Nessun rimorso era l'enorme striscione con cui abbiamo aperto una veramente gigantesca marcia nel momento in cui stavamo arrivando al momento dell'appello, che abbiamo chiamato a Genova, una manifestazione enorme con dei numeri che non so come dire, ma per il periodo storico in cui siamo adesso sono veramente fantascientifici, perché parliamo davvero di svariate decine di migliaia di persone. Però abbiamo deciso di dare questo nome a questa mostra perché insomma è davvero uno slogan che fa parte anch'esso della nostra storia. Abbiamo deciso di farla a Senape, che è un luogo in qualche modo un po' meticcio, come piace a noi. È un luogo sicuramente che fa parte di questa città, dove avvengono tantissimi eventi culturali. Senape è un vivaio urbano, però in qualche modo è un vivaio da tutti i punti di vista, nel senso che è davvero anche un vivaio culturale. Abbiamo deciso volutamente di non farlo all'interno di uno spazio sociale, perché in qualche modo è anche giusto che nel momento in cui decidi di fare una cosa che ha un senso, ai noi, commerciale, nel senso che questi soldi, appunto, questa cosa viene fatta non solo per una funzione culturale, ma anche e soprattutto per una funzione di raccolta fondi per le persone che ancora stanno in carcere, è giusto anche farlo in un luogo che abbia questo genere di valenza. Senape era un posto che ci sembrava adatto, perché davvero è anche un luogo culturalmente importante, è un luogo con cui condividiamo scelte e idee, e ci sembrava davvero uno dei posti giusti dove potevamo farlo in questa città. Abbiamo deciso appunto di aprire i nostri scatoloni e ci abbiamo trovato dentro davvero tante cose, perché oltre ad alcune opere di Zero Calcare, che è davvero un nostro compagno, posso dirlo proprio col cuore dall'inizio, e che sarà con noi anche in questa serata, abbiamo anche molte altre opere di molti altri fumettisti, abbiamo delle opere di Lucio Villani, abbiamo delle opere di Michael e Mirko, Claudio Parentela, Maurizio Ribichini, Daniele Catalli, H. Piri Piri Atelier, abbiamo Dalia Del Bue, Alberto Ponticelli e Giuseppe Palumbo, il Pistice Giuseppe Palumbo, tra l'altro anche lui sarà con noi e ci fa davvero davvero molto piacere avere anche lui ad accogliere chi avrà voglia di venire con noi. Metteremo all'asta tutti questi pezzi originali, ci saranno anche delle stampe, abbiamo fatto anche delle stampe numerate, Zero Calcare ci ha regalato delle nuove tavole, perché poi questa solidarietà in realtà non finisce da parte di questi che sono veramente amici, possiamo dire che sono veramente amici, per cui abbiamo anche una tavola che abbiamo fatto stampare come stampa di d'arte da Inuit, uno stampatore locale che apprezziamo tantissimo. Saranno stampe numerate, firmate, e poi avremo il piacere di mettere al lavoro sia Zero Calcare che Palumbo e chiedergli di fare ancora uno sforzo, ancora una tavola da mettere all'asta nel corso della serata. Quindi potrà anche essere in qualche modo l'occasione per vedere davvero due personaggi importanti dell'illustrazione di questo paese attuale disegnare e costruire un'immagine da zero. Questo sarà un po' il succo della serata, quindi potersi vedere una bella mostra innanzitutto, poterne acquistare dei pezzi, poter partecipare a un'asta e in qualche modo anche, senza che servano altri discorsi, in qualche modo anche sapere che i propri soldi vengono poi utilizzati per sostenere delle persone che si stanno pagando un pezzo di storia di tutti, molto semplicemente.